Quante volte sai sono andato via per vedere cosa c'è più in là. Ho trovato un pezzo della vita mia e così eccomi qua. Quante mani nude soffrono dentro questo cuore freddo che sento, non lo sento, sta scoppiando mentre grido con tutta la mia voce. Ho visto quel viso, sai, ti prego scusami, non volevo farlo, temevo di ferirti come un'impronta. Un piede lascia una traccia come dietro un'ombra di un vetro che crolla. Davvero, quante volte sai sono andato via per vedere cosa c'è più in là. Ho trovato un pezzo della vita mia e così eccomi qua. Quante mani nude soffrono dentro questo cuore freddo che sento, non lo sento, sta scoppiando mentre grido con tutta la mia voce. Ogni giorno che passa penso a ciò che abbiamo fatto, una vita che avanza, un sogno nel cassetto, una strada ripida piena di curve, sali scendi, una bacchetta magica per cancellare questi anni. Davvero, quante volte sai sono andato via per vedere cosa c'è più in là. Ho trovato un pezzo della vita mia e così eccomi qua. Quante mani nude soffrono dentro questo cuore freddo che sento, non lo sento, sta scoppiando mentre grido con tutta la mia voce. Suona già la nostra canzone, sentila. Davvero,